Sabato 4 marzo al Locomotive, Lady Blackbird aprirà la sua mini tournée italiana di 5 date, in promozione al suo unico disco Black Acid Soul, pubblicato la prima volta nel 2021 e poi, dopo il grande successo, ripubblicato l'anno scorso con l'aggiunta di nuovi brani. Il disco, prodotto da Chris Seyfried, un musicista che ha scritto brani anche per Prince ed oggi è uno dei produttori più interessanti della scena Neo Soul, ha ottenuto ottime recensioni e ha fatto guadagnare all'artista del New Mexico accostamenti importanti, tra cui quello con Nina Simone, uno dei miti della cantante, tanto che nel suo nome d'arte compare anche una citazione al brano Blackbird, non a caso traccia di apertura del suo lavoro in studio. La scelta del repertorio non è stata facile, non tanto per le esecuzioni, ma per la quantità di materiale disponibile. La cantante ha infatti dichiarato che, prima di registrare, lei e il produttore hanno sentito centinaia di canzoni, cercando quelle con cui lei avrebbe potuto creare una connessione più intima. Sempre Lady Blackbird dice infatti che dà il meglio di se stessa quando è profondamente coinvolta da una canzone. È incredibile pensare che Lady Blackbird non abbia mai preso lezioni di canto, ma la musica è sempre stata una parte importantissima della sua vita. Non si tratta infatti di un esordiente, nonostante il solo disco all'attivo. Marley Monroe, questo è il suo vero nome, canta infatti fin da giovanissima ed ha avuto anche un paio di contratti con altre etichette discografiche che tuttavia non sono andati a buon fine. Ha iniziato con la musica gospel, ma è durante le centinaia di concerti che ha già tenuto che si è avvicinata al genere musicale che più le si addice, il jazz. La sua voce piena di sfumature drammatiche e quasi soul si adatta infatti perfettamente ai pezzi contenuti nel suo primo album. Ancora una volta sono le sue parole a descrivere meglio il percorso che l'ha portata ad arrivare fino qui. Ho imparato a concentrarmi soprattutto sulla mia voce e non sul contorno. Per questo ho preferito puntare su un arrangiamento essenziale che mi mettesse in una condizione di vulnerabilità. È stato come riassestare le priorità. Ho tolto tutti gli strati superflui ed è rimasta solo la mia vita, la mia vera natura. L'incontro con Chris Sinfield le ha poi consentito di iniziare a registrare il suo primo album. La chimica tra i due si è infatti rivelata immediata. Riguardo al titolo del disco, Black Acid Soul non era nato come il titolo del disco, ma era soltanto una specie di definizione che spiegava il microgenere che i due volevano creare in studio. Oltre ad essere diventato il nome della traccia di chiusura del disco, però, è sembrato talmente adeguato da volerlo mantenere come il titolo definitivo del lavoro. E mentre si susseguono le voci sul fatto che la cantante sia già in studio a registrare un nuovo disco, ovviamente non ci sono notizie ancora riguardo la scaletta o la data di uscita, l'appuntamento rimane quindi per sabato 4 marzo al Locomotive Club di Bologna. Questa sarà infatti la prima data di una mini tournée che l'artista farà in Italia, dopo essere già stata nel nostro paese l'anno scorso per 3 date. In particolare, i 5 concerti di quest'anno saranno Bologna, Bari, Matera, Taranto e Milano. Riguardo a quanto possiamo aspettarci dai concerti, è sempre la stessa Lady Blackbird a darci qualche indizio. Sul palco porterà infatti la malinconia che contraddistingue il suo lavoro in studio, ma non rinuncerà alla parte di divertimento che caratterizza gli eventi dal vivo. Lei, difatti, si definisce una entertainer e siamo certi che saprà intrattenerci con la sua grande voce.